Europa 24. Una buona giornata da Laura Bettini per questa appunto puntata di Europa 24, nella quale parliamo prima di tutto del Consiglio Esteri che è in programma oggi a Bruxelles, e sul tavolo c'è soprattutto la questione libica. Lo sconquasso politico e istituzionale del paese africano è ormai considerato un problema europeo, non solo perché dalla Libia arrivano in Europa migliaia di immigrati ogni mese, ma anche perché il paese rischia di diventare la culla di nuovi estremisti islamici, pronti a compiere attentati nell'Unione Europea. I 28 sono pronti ad aiutare il paese, fosse solo per meglio controllare le sue frontiere. Vogliono però prima assicurarsi che nel paese ci sia un governo di unità nazionale, oggetto oggi di difficili negoziati tra le diverse fazioni libiche. Secondo le prime informazioni, nella riunione di oggi qui a Bruxelles, i ministri degli esteri chiederanno all'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, di preparare iniziative e misure da proporre ai 28 una volta che la Libia avrà un proprio governo. A Riga, 10 giorni fa, la stessa signora Mogherini aveva aperto la porta a una missione europea, civile o militare. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. La questione libica quindi è all'ordine del giorno della riunione dei ministri degli esteri della Unione Europea, ma non c'è solo quella. Come ha spiegato alla Riva Bruxelles l'alto rappresentante per la politica estera europea, per l'appunto Federica Mogherini. Parleremo anche di immigrazione. Sono 11 anni che i ministri degli esteri non adottano conclusioni sull'immigrazione. È ora di cambiare pagina sulle politiche europee dell'immigrazione. È ora che i ministri degli esteri siano pienamente coinvolti, pienamente responsabili della gestione delle politiche migratorie dell'Unione Europea sul versante esterno. I ministri dell'interno hanno lavorato su questo la scorsa settimana. È importante che oggi qui noi facciamo il collegamento tra le politiche esterne e le politiche interne dell'Unione Europea riguardo alla gestione delle politiche migratorie. E a proposito di questo, l'Ufficio Europeo di Sostegno per l'Asilo, si chiama EASO, fornirà all'Italia un sostegno su misura per 12 mesi. Il piano è stato firmato e prevede un supporto operativo a lungo termine per le commissioni territoriali italiane su informazioni riguardo i paesi di origine e lavoro amministrativo di preparazione dei fascicoli delle domande di asilo. C'è sempre aperta la questione della Grecia, la situazione è seria, ha avvertito la Commissione europea, e prima che la questione possa tornare al tavolo dei leader europei bisognerà completare i negoziati a livello tecnico. Anche questa settimana la priorità è collegare e continuare a lavorare sugli impegni presi da Atene con l'Eurogruppo, ha spiegato il portavoce della Commissione Margaritis Skinas. È tutto per questo appuntamento, ci si ritrova a parlare di Europa nel corso di Effetto Notte, come ogni giorno. Da Laura Bettini, un buon ascolto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.